Allora, vediamo prima una breve scheda di Ara, cioè di Attraverso e di Radio Alice. Aspetta un attimo. Ma per favore, aspetta un attimo. Sì. Dunque, Attraverso nasce da, così ha cominciato a uscire nel maggio del 75. Il collettivo di redazione è formato prevalentemente da compagni, da gente che esce da Potere Operaio nel 73 e poi da alcuni compagni che hanno fatto esperienze d'altro genere, ex PDUP, ex Lotta Continua. Comunque il percorso teorico e politico passa attraverso Potere Operaio, la crisi di Potere Operaio, la disgregazione del quadro che si era formato nel 69-70 e così si ricompone intorno a un'ipotesi che fa perno sul problema del proletariato giovanile. Ecco, Attraverso esce dal maggio del 75, sono usciti 8 numeri del giornale e 3 numeri della rivista. La rivista è vicina Rossa anche. Ah sì, dunque, inizio, questo è... Dunque, Attraverso si colloca all'interno dell'area dell'autonomia e esce di fatti come supplemento a Rosso. Tanto viene divulgato soprattutto a Bologna, no? Ma dunque, Attraverso vende prevalentemente a Bologna, Milano e Roma. Ecco, la maggior parte delle copie però vanno a Milano, in Lombardia in generale. Anche se la vendita militante è fatta soprattutto a Bologna. Ed il giornale è stampato a Bologna, il collettivo che lo fa è di Bologna. Ecco, niente, riguardo ai rapporti con l'area dell'autonomia, ripeto, usciamo come supplemento da Rosso, quindi noi ci consideriamo interni all'area, anche se così ci differenziamo sul problema dell'organizzazione, ad esempio, riteniamo che il problema principale sia la ricomposizione che cresce dall'interno del movimento e non la costruzione di un'organizzazione che si sovrapponga al movimento e l'accentuazione che noi facciamo del concetto di proletariato giovanile come settore privilegiato. Cioè più importante all'interno dell'attuale fase di ricomposizione. Inoltre facciamo tutto questo discorso che secondo me è trascurato da altri settori di movimento sulla pratica creativa, la scrittura, la poesia, l'intervento sulla comunicazione, la trasformazione del quotidiano e delle forme di comunicazione che poi sono la premessa del passaggio che abbiamo fatto a Radio Alice, ecco, per cui magari se vuoi ti dico alcune cose su qui. Ecco, allora, vabbè, questa è una scheda su Attraverso. Vediamo adesso Radio Alice, l'esperienza, quando è sorta e poi eventualmente quelle denunce che avete avuto, no? I giornali ne hanno parlato, ecco, mi interesserebbe sapere in particolare di questo. Ecco, riguardo a Radio Alice, anzitutto come nasce come tentativo di realizzare, di verificare un'ipotesi sulla scrittura come pratica trasversale, cioè come pratica capace di attraversare tutte le forme dell'esistenza quotidiana delle masse e quindi di trasformare poi il comportamento del quadro di movimento. Ora, nel momento in cui si fa questa ipotesi, noi riteniamo che le forme tradizionali della comunicazione di movimento, il volantino, il giornale, eccetera, tendano ad essere superate e invece la comunicazione che rende possibile il feedback, il reintervento, la trasformazione, magari la critica, sia la forma adeguata alla situazione nuova in cui operiamo e quindi l'ipotesi della radio, la radio tutta in diretta e con intervento telefonico della gente che ascolta, delle situazioni in cui siamo presenti. Ecco, Radio Alice è un progetto che noi portiamo avanti dal settembre del 75, nel senso che da allora si è costituito il collettivo radio e solo il 9 febbraio abbiamo cominciato a trasmettere. Ecco, la Radio Alice è nata inizialmente intorno al collettivo di Attraverso, un collettivo redazionale fatto da una quindicina di compagni. Intorno a questo si sono aggregati alcuni collettivi di scuola, 2 collettivi femministi, un comitato operaio, il collettivo autonomo degli omosessuali di Bologna e una quantità di compagni giovani proletari che non fanno riferimento a nessun tipo di organizzazione. Ora, nel momento in cui Radio Alice è andata qualificandosi proprio come un momento di riaggregazione di un'area estremista, diciamo, cioè considerando questa parola, questa espressione come non solo l'area dell'autonomia così come figura organizzata, ma proprio un'area autonoma. Ecco, da quel momento è iniziata un tentativo di criminalizzazione da parte delle forze di polizia, ma anche del riformismo in Emilia, dal Partito Comunista che ha tentato di fare un'opera di dissuasione nei confronti dei suoi militanti dall'ascoltare Radio Alice, all'arresto di un compagno della redazione che poi in particolare a marzo, e a tutta la montatura che è stata costruita, il tentativo di vedere Radio Alice come una cosa di Brigate Rosse e così via. Su questa cosa io credo che il tentativo di criminalizzazione siamo stati in grado di distruggerlo e di renderlo inoperante, salvo poi il fatto che queste cose non sono mai battute abbastanza. C'è stata una denuncia vera e propria da parte di chi? Le cose si sono... Cioè, in realtà l'arresto, il mio arresto, al momento che sono andato in galera e quindi sto parlando di una cosa che, che conosco, sì. È stato motivato con questa cosa di partecipazione a Brigate Rosse, cosa cioè infondata, senza prove. In realtà Radio Alice ha, prima del mio arresto e durante e anche dopo, ripetuto alcune affermazioni politiche che noi rivendichiamo come nostre, cioè che riteniamo che Brigate Rosse siano compagni che appartengono fino in fondo alla storia del movimento, e in quanto tali noi non solo rispettiamo, ma riteniamo che sia compito del movimento difenderli. Su questo abbiamo fatto un lavoro di controinformazione e di chiarimento tramite la radio, così proprio settimanalmente c'è una trasmissione su repressione e criminalizzazione della lotta armata. Ora, dal fatto che noi informavamo su questo tema in modo non delatorio, evidentemente per i poliziotti è risultato che noi eravamo di Brigate Rosse. Questo non è vero, perché intanto perché il nostro discorso punta su una tematica che, se così per dirla molto rapidamente, può essere definita spontaneista, e rifiutiamo quindi, pur nel pieno rispetto dell'esperienza di BR, rifiutiamo la loro connotazione tardo-leninista, la loro ipotesi dell'apparato contro apparato. Ecco, questo... Non insistere su queste cose, perché poi non ci sarebbe spazio nel giornale, perché tra l'altro sai che c'è il PC a Venezia, quindi... Senti, puoi dire, posso dire eventualmente il tuo nome, no? Dico, tu sei uno della redazione di... Mi chiamo Franco Berardi. Mi chiamo Franco Berardi, sono della redazione di Attraverso di Radio Alice. Io direi che questo è sufficiente su Radio Alice. Adesso mi interesserebbe sapere il perché della partecipazione tua, insomma vostra, perché penso che tu rappresenti il giornale e la radio, no? A questo convegno di Pistoia. Cioè, come mai avete deciso di partecipare a questo? Dunque, ci sono due o tre cose a questo proposito. Uno, il fatto che da un anno a questa parte, mi pare, vediamo da un lato una progressiva istituzionalizzazione di tutta la stampa rivoluzionaria, quella dei gruppi, diciamo, no? Che sempre di più ricalca il percorso delle organizzazioni, su cui non è necessario insistere, insomma. Ecco, e dall'altra invece emerge una estrema frammentatissima, una ricchezza e una frammentazione estrema di esperienze così autonome, legate magari alle esperienze che poi i settori del proletariato giovanile fanno, più delle volte, anche se poi non sono da trascurare le esperienze di comitati di operai di fabbrica che fanno giornali, fanno intervento. Ora, quindi noi contavamo che questo convegno riuscisse a essere un momento di aggregazione di questo settore, cosa che non si è verificata. Quindi c'era questa aspettativa che è andata frustrata, almeno. Non credo per colpa degli organizzatori del convegno, ma probabilmente perché soprattutto ad esempio i compagni di Milano hanno sentito che questo convegno non rispondeva a un bisogno di aggregazione dell'area autonoma sul terreno della stampa e della controcultura, ma l'hanno sentito piuttosto come un fatto così di organizzazione specialistica di questo settore. La seconda aspettativa era quella di, così molto materiale, molto ovvia, di rendere più funzionale la distribuzione della rivista, e da questo punto di vista alcune cose credo che siano andate, cioè così, una serie di contatti che io ho preso e che vabbè ci possono servire, ma questo è il livello minimo. Scusa, hai finito un attimo? Sì. Nel complesso è comunque abbastanza positivo questo primo così convegno che cerca un po' di coordinare tutte le varie esperienze di una certa sinistra. Io lo vedo abbastanza come un fatto positivo, anche se evidentemente ci sono delle cose stridenti. No? La cosa... voglio dire, era scontata l'eterogeneità delle forze che sarebbero, anzi delle debolezze che sarebbero state presenti a questo convegno, e quindi va benissimo. Il problema è che bisognava forse riuscire a distinguere un po' meglio fra il livello del come dire, fra un momento di presa di contatto sul piano tecnico, che in fondo è la cosa su cui si è andata avanti, da un altro livello che andava un po' magari staccato più precisamente, e che tentasse di far incontrare dei settori omogenei all'interno di questo convegno, cosa che non è avvenuta. Forse è avvenuta solo per le riviste letterarie, mentre non è successo per altri settori della stampa. Però, voglio dire, su questo piano si può andare avanti. Una cosa che volevo dire, poi che poi è la terza ragione per cui ero venuto a questo convegno di Pistoia, e così insomma non ne ho ricavato molto, è che noi stiamo, sia come Radio Alice che come Attraverso, stiamo preparando per settembre una cosa che chiamiamo Carovana Desiderante, e che è il tentativo di portare in giro da Torino a Milano, al Veneto, all'Emilia, su tre furgoni, portare in giro l'organico della radio, una brigata murales, una brigata agitazione che faccia intervento su alcuni temi, uno dei quali, tanto per dirne uno, è quello della riduzione della giornata complessiva di lavoro, lavorare tutti ma pochissimo come tematica generale. Per cui il tentativo era di presentare questa iniziativa qui. Questo non è tanto riuscito proprio per quell'eterogeneità che ti dicevo prima, mentre è riuscito il fatto di prendere contatti con compagni che su questa cosa sono interessati. Per cui c'è sicuramente stata un'utilità di questo convegno. Secondo me poteva essere più precisato e quindi... Va bene. Comunque un'altra cosa, cioè questo poi lo inserisco prima eventualmente, cioè i legami eventuali tra voi, sia di Radio Alice sia di Attraverso, con l'Erbavoglio. C'è un rapporto, da un lato il fatto che ci sono una serie di tematiche sulle quali, delle quali ci interessiamo, dalla critica delle ideologie della sinistra alle tematiche del desiderio, alle tematiche della scrittura, che così accomunano un po' col lavoro che fa l'Erbavoglio con quello che facciamo noi. E poi c'è proprio il fatto di riconoscersi in un'area che rifiuta l'organizzazione come modello tardo-leninista, e invece tentare di ripartire dal concetto di desiderio piuttosto che da quello di bisogno, o peggio ancora da quello di organizzazione. Ecco, quindi c'è questa cosa. Poi c'è un rapporto di simpatia fra alcuni compagni che lavorano. Di collaborazione, mi sembra. Sì, no? Ci sono alcuni articoli nostri. C'è questa iniziativa editoriale che sta andando avanti, in cui l'Erbavoglio cura un settore editoriale e col quale, così come Attraverso, noi collaboriamo. Abbiamo in preparazione un libro sulla radio e per dicembre un libro che si chiama Il desiderio postcomunista, che sono le due cose che curiamo noi come Attraverso dentro questa iniziativa che è complessivamente dell'Erbavoglio. Allora, mi parli tu di quello che vuoi, va bene? Cioè, allora, sentiamo Tiboni che riferisce, fa delle considerazioni su questo convegno, è vero, ed eventualmente fa delle proposte. È così completa. Cioè, tu devi dire delle cose. No, siccome ho fatto altre domande così devo stare in convegno ad altri, inutile che mi ripetano, cioè se tu puoi effettivamente dire qualcosa di nuovo delle tue considerazioni. Ma considerazioni sul convegno sono un po', secondo me, difficili da fare, sì. Nel senso che è tutto da vedere ancora. Ci sono state grosse contraddizioni e c'erano delle grandi aspettative, però di concreto, secondo me, non c'è ancora niente. Al massimo posso spendere dei giudizi di meriti miei, che però non credo che abbiano un'importanza. il risultato, a meno la cosa che può risultare interessante al massimo è quello che da questo primo incontro può iniziare qualcosa. Però anche qui ti ripeto, sono più dell'idea che c'è tutto da aspettare, da vedere ancora che... Quello che ritengo interessante è la probabilità che si inizi una serie di collaborazioni e da qui, da questo primo passo, si inizi un certo processo di crescita che sarà abbastanza lungo, secondo me, ma abbastanza costruttivo, abbastanza creativo. La mia posizione ritengo sia abbastanza realistica, nel senso che, dato le svarianti sfumature culturali, ideologiche che c'erano, quello che è venuto fuori è il massimo, che è stato conoscersi e basta. Però dico abbastanza realistico, e ho fatto anche proposte realistiche, proponendo ad esempio l'incontrarsi. Ecco, allora, tu come ISAT, sei qui soprattutto come ISAT, no? Che cosa proponi di così di tipo organizzativo, così realisticamente parlando? Sì, no. Tenendo conto le diversificazioni enormi che ci sono, diciamo, sei partito, eh? Ma che ora parti? Sei in treno in aeroporto. Aspetti che il pomeriggio possiamo assieme. Ma che ora? E questo non so gli orari, devo vedere gli orari. No, non è vero, è importante arrivare verso me. Non è verso 5, 5 qualcosa. No, allora devi partire subito se vuoi arrivare alle 5. Io ho già intenzione di partire stamattina presto. Puoi fermare. Vediamo allora le tue proposte per organizzare un circuito serio di giornali di base e del movimento o di tutta un'altra serie di esperienze, va bene? Proposte proprio concrete, queste le posso mettere come conclusione, va bene? Dunque, la proposta concreta che io ho fatto al convegno è quello di associarsi, di incontrarsi più che di associarsi a livello di interessi analoghi sul piano culturale e politico, e su questi livelli incominciare a sviluppare un minimo di cooperazione, e qui non parlo di concentrazione ma di cooperazione, di collaborazione, al fine di riuscire a elaborare del materiale utile al movimento, di elaborarlo in maniera più vasta, più completa possibile. E questo credo che sia il primo passo concreto, reale, immediatamente realizzabile e utile dalla parte dei vari giornali che c'erano. Anzi, è stato un orientamento generale di tutti quello di chiedere collaborazioni qualificate. Quindi può essere, secondo me, il primo passo, il più immediato e il più efficace. Intanto che mi hai fatto, con questo intervento mi viene in mente una cosa. Personalmente ritengo inutile una istituzionalizzazione oggi di questa editoria. Se personalmente sono stato contrario al concetto di federazione, ad esempio, fatto dai giornali di zona. Creiamo un istituto democratico senza basi concrete dietro. Io, vabbè, data la mia esperienza politica, ci sto molto attento a questi formalismi, perché possono prestarsi a strumentalizzazioni pericolosissime, e ripeto, ritengo che il grosso dell'opposizione che è venuto fuori ieri era proprio perché c'era questa paura dietro. Non per niente la proposta è stata portata avanti e presentata da tre nel movimento studentesco, e tutti fra loro tre se la palleggiavano, giocando ai democratici. Non so fino a che punto in buona fede o in mala fede. Questa è una. La prima proposta concreta, e i primi risultati concreti che verranno fuori saranno proprio questi. E a livello di altre proposte reali, c'è da fare un aggancio a un po' tutto quello che è un evolversi delle situazioni riguardo all'editoria nel movimento, nel senso lato. Ossia c'è a monte a questo punto una difficoltà di produzione culturale, c'è a monte una difficoltà di veicolazione, un problema delle librerie democratiche a questo punto. Finito con le tue considerazioni prima, cioè adesso vuoi puntualizzare, ecco, allora vediamo un po' la tua opinione sulle librerie democratiche e la proposta invece mi sembra di creare una rete di librerie militanti, no? E questo è il problema, no? Sì, il circuito di veicolazione ha le sue varie sfumature, va dal circuito commerciale al circuito militante e a tutti i circuiti che si possono inventare, ossia iniziative di promozione, vendita per corrispondenza, cose varie. Mi soffermo sul circuito commerciale in quanto distributore e ho da fare subito un appunto pesante alle cosiddette librerie democratiche, dove verifico l'atteggiamento della massa delle librerie democratiche di rigetto di questa editoria di base o di editoria militante, motivato in linea di massima da ragioni economiche, non è più remunerativo per loro o comunque oggi, dato la necessità di aumentare i profitti dato l'aumento del costo di vita, la crisi economica e tutte queste varie problematiche, per un libraio oggi è più remunerativo tenere esposto un libro che una rivista, perché quando ha venduto il libro ha guadagnato tanto quanto dopo che ha venduto 10 o 20 riviste, non solo più remunerativo ma gli dà anche meno lavoro. A questo punto sono proprio i librai democratici, su questa opposizione stanno rigettando tutto quello che è l'editoria democratica, l'editoria di base e militante. Quella più specifica del movimento. Più specifica quella del movimento, in senso lato. Qui va fatta un'ulteriore precisazione nell'ambito delle librerie democratiche, un'ulteriore precisazione sulle grosse librerie democratiche, se vuoi sono le Feltrinelli, non solo, comunque parecchie altre, che si gratificavano di essere librerie per il movimento e oggi a mio avviso non lo sono, oggi si stanno trasformando in grossi supermercati che trattano tutto il materiale del movimento come prodotto merce da vendere e basta, e solo in questa ottica gli interessa. Quindi hanno perso un loro ruolo che era storico, che era quello di riuscire a presentare, privilegiare, spingere, promuovere questo materiale. Oggi questa grossa carenza dicevo della trasformazione delle grosse librerie cosiddette democratiche tipo le Feltrinelli in grossi supermercati, quindi in centri che non fanno più nessun servizio di proposta culturale, ma si limitano soltanto a essere delle grosse iniziative commerciali e basta, con ovviamente il limite del loro servizio relativo a questo materiale. E qui la necessità per tutto il movimento di ridarsi dei centri di proposta di promozione e di iniziativa culturale suoi, autonomi. Da qui a questo punto il fiorire da un anno a questa parte di tanti centri di documentazione, di centri di informazione o di controinformazione o di librerie militanti. Il fenomeno che sta crescendo a vista d'occhio in tutta Italia. E su queste librerie ci tengo a precisare una cosa, qui ancora come distributore se vuoi, visto che sono uno strumento oggi necessario al movimento, sono i centri da dove partiranno le varie iniziative di carattere culturale e politico per il movimento, quindi sono uno strumento importantissimo per la veicolazione. Queste librerie hanno dei grossi problemi, hanno delle grosse difficoltà. E il problema più grosso adesso di queste librerie è che hanno bisogno di riuscire a commercializzarsi come iniziativa, al fine di riuscire a sopravvivere economicamente. C'è da dire che finora queste librerie sono state finanziate prevalentemente dall'editoria di base militante, però non basta, è pochissimo, riescono solo a spesarsi, devono anche le persone, i compagni che ci lavorano, anche camparci sopra, e questo lo possono fare solo aumentando quello che è il giro commerciale loro. E aumentare il giro commerciale oggi lo si può fare solo con l'editoria democratica, e qui purtroppo devo dare una frecciata all'editoria democratica. L'editoria democratica non ha ancora capito il ruolo importante di centri di proposta culturale, il ruolo che hanno queste librerie militanti. Allora, che cosa proponi, cioè che cosa chiedi alle librerie democratiche? Quale tipo di appoggio? No, io alle librerie democratiche non chiedo più niente, se no agli editori democratici, perché le librerie democratiche sarà difficile che cambino. Ormai è nato questo fenomeno di librerie militanti, è questo che noi stiamo spingendo, è questo da cui noi ci aspettiamo, e credo anche tutto il movimento, ci aspettiamo il fiorire di enormi iniziative territoriali o anche extraterritoriali. Il problema è che adesso il problema è chiedere agli editori democratici di appoggiare queste librerie, anche nel loro interesse se vogliono a questo punto, perché se sono i futuri centri di iniziativa culturale, saranno anche i futuri centri che lanceranno anche iniziative culturali e politiche delle librerie democratiche. Quindi occorre che l'editoria democratica si faccia carico a questo punto del fatto che questi centri hanno bisogno di qualificarsi commercialmente, e che per qualificarsi come tali hanno bisogno di materiale commerciale, e materiale commerciale ce l'ha l'editoria democratica. Vabbè, questo è uno. Ritornando a quello che è l'editoria di base e militante, la mia proposta è quella di arrivare, oltre alla prima concreta, di trovare i piani iniziative di cooperazione su analoghi piani culturali e politici, è quello di creare degli organismi di associazionismo a livello territoriale, a livello regionale o cittadino. E un esempio che che uso in questo caso è il COPCOM di Milano, dove il COPCOM, il Consorzio Produzioni e Comunicazioni di Massa, se mi ricordo, dove anche noi come organismo di distribuzione siamo entrati e ci siamo consociati. E questi centri di consorzio, questi consorzi, questi centri di associazione sono oggi sono un grossissimo strumento per potenziare, per dare maggior capacità e potenzialità a tutte queste iniziative di portarsi avanti e di andare avanti. L'associazionismo oggi credo che sia l'unica soluzione per poter andare avanti. Una cosa che ho dimenticato è che un'altra proposta valida per il movimento, che però riguarda le librerie militanti, è i consorzi d'acquisto per le librerie militanti, ossia è un modo, diciamo, tecnico commerciale per riuscire a superare quella difficoltà di riuscire a avere determinato materiale commerciale. Ossia, la grossa distribuzione non si fida di librerie militanti, non consegna materiale. A questo punto si tratta di dare le adeguate garanzie, diciamo, commerciali, e il associazionismo in un consorzio che crea quel minimo di somma di garanzia, di sicurezza per il distributore, per l'editore, è il minimo di strumento per riuscire a dare quella garanzia necessaria, quel interesse necessario anche, perché una volta consorziati si aumenta la forza contrattuale, nel senso che non si va più a trattare per 10 libri, ma si va a trattare per 100, e quindi l'interesse a questo punto aumenta. Quindi il consorzio d'acquisto è un ulteriore strumento per le libere militanti per riuscire a superare la loro situazione di impasse, di difficoltà di approvvigionamento di materiale. Vizi politici, non ce la fa.